Possiamo cominciare? Allora, ciao a tutte, ciao a tutti. Un grazie particolare al Nido che continua a ospitarci in questi incontri. E un grazie particolare a Barbara Balzerani che è qui con noi. E quindi intanto due parole per spiegarvi che cos'è questo incontro. È il secondo del ciclo violenza femminismo, paradigma della violenza non violenza, ed è incentrato sui ruoli, ma non come verrebbe spontaneo per il nostro campo di intervento, i ruoli di genere, i ruoli in senso lato, e l'abbiamo intitolato aggressori ed aggrediti. Veramente l'abbiamo intitolato con l'asterisco aggressori ed aggrediti, non riusciamo a dirlo, ma è una scelta. E perché? Perché il neoliberismo tende a appiattire assolutamente questo tipo di ruolo, cerca continuamente di depoliticizzare le lotte, di trascinare quella che è la legittima rivendicazione degli oppressi e delle oppresse, la rabbia, la ribellione, su un terreno delinquenziale, e quindi togliergli ogni valenza politica, confondere appunto l'aggressore con l'aggredito. E questo lo fa sia sul fronte interno che sul fronte esterno. E noi abbiamo come femministe sempre avuto un approccio partendo da noi al politico. E noi sappiamo benissimo, proprio come donne, la differenza che esiste tra aggressore ed aggredita. E anche che cosa significa appiattire questa differenza, cioè trascinarla sul confronto civile, sulla democraticità del confronto, sul sereno rapporto fra le parti, perché è questo che cercano di proporre, no? E quindi noi sappiamo che poi, alla fine, allo stucco della faccenda, succede sempre che la donna aggredita, o comunque la violenza che subisce il genere, chiamiamolo oppresso, è sempre sminuita, svilita, messa sullo stesso piano di quello che invece questa violenza l'agisce. E questa è una caratteristica proprio di questa fase storica del neoliberismo, che fa anche un'altra operazione, che è quella di strumentalizzare le lotte che cercano di uscire da questa società e di rivoltarsi rispetto a questa società, e quindi strumentalizza i diritti umani, strumentalizza l'oppressione delle donne, strumentalizza le diversità, strumentalizza l'antirazzismo, e viene fuori una società che in effetti noi abbiamo chiamato dell'antirazzismo razzista, dell'antifascismo fascista, dell'antisessismo sessista, perché in effetti si muove in questo modo. E non solo sul fronte interno, ma sul fronte esterno, quindi nei confronti dei popoli del terzo mondo, stravolgendo assolutamente anche quello che è un lessico consolidato della sinistra, usandolo e chiamando il neocolonialismo guerre umanitarie. No? Perché? Perché il neoliberismo è portatore di un nuovo concetto di colonialismo. È un colonialismo impostato su quello che noi abbiamo chiamato la violenza dell'impero del bene, cioè i paesi occidentali, in primis gli Stati Uniti, che sono lo stato del capitale, affrontano il rapporto con i paesi del terzo mondo in veste neocoloniale e come, però sotto le mentite spoglie del la tutela dei diritti umani, appunto le guerre umanitarie, la tutela dei diritti delle donne, la tutela dei diritti delle diversità, il famoso pinkwashing, poi, no, con cui alcuni stati, per esempio Israele in primis, si lava la faccia tutelando, secondo lui, i diritti dei gay, delle diversità sessuali, eccetera, e attraverso questo meccanismo invece imponendo violente guerre di conquista, di fatto. Allora, perché abbiamo scelto di presentare in questo contesto, in questa lettura, il libro di Barbara? Perché il libro di Barbara è un libro diverso rispetto a tutti quelli che ha scritto finora. È un libro che si pone in rapporto, ha l'idea, ha la voglia di analizzare il rapporto fra l'Occidente è il terzo mondo, ma non dal punto di vista umanitario, per carità, non dal punto di vista dei rapporti politici neanche, ma dal punto di vista della quella che noi abbiamo chiamato spesso la bianchezza abbagliante, cioè il fatto che l'Occidente e quindi anche la sinistra e anche il movimento tutto ha una posizione particolare, si porta dentro categorie di oppressione comunque nei confronti dei popoli del terzo mondo. Allora, diciamo che le cose che ci hanno colpito di più in maniera estremamente sintetica sono tre, cioè la prima è che dal libro viene fuori il desiderio o comunque pone la necessità del cambiamento del modello economico, cioè che chi è rivoluzionario e chi vuole uscire da questa società si dovrebbe porre il problema di cambiare il modello economico. L'altra è in effetti il concetto di progresso che ha attraversato la sinistra per anni e ha condizionato la sinistra per anni e in un certo modo ha aperto anche la strada a tutta una strumentalizzazione e anche una modalità di uso da parte del capitale, e quindi riflettere su questa cosa. E la terza è poi il discorso dell'approccio che anche la sinistra di classe dovrebbe avere o potrebbe avere, sono tutte domande aperte nei confronti di chi è portatore di modelli diversi, diciamo, usiamo un termine generico così. Allora, è chiaro che cos'è il libro, ce lo racconterà Barbara, perché è un libro particolare. Però noi vorremmo cominciare leggendovi un paio di stralci che abbiamo scelto con un certo criterio, cioè abbiamo scelto il primo che racconta un attimo quello che è stato la carica entusiastica, entusiasmante, emotiva e politica e rivoluzionaria degli anni 70. Allora, avete un po' di pazienza, vai tu? No, mi hai messo a matita. Eravamo tanti nelle strade, nelle piazze, in ogni angolo della città, e non eravamo soli. I padri e fratelli maggiori c'erano con noi, con la stessa ostilità. Ci eravamo incontrati e riconosciuti compagni in una battaglia che finalmente ci liberava dallo scemo abbraccio col nemico voluto da rinunciatari padri della patria. Padri rancorosi che mai hanno smesso di criminalizzare tutti quelli che avevano deciso di non seguire il loro cattivo esempio. Incrinatura netta fin dentro le famiglie, come sempre nelle guerre civili, dove in gioco non c'è l'esito di una o mille vertenze, ma chi decide sulla vita di tutti, come e per cosa. Per averne superata la sudditanza nessun potere rimase incolume e fu scontro di classe, dei più radicali, anche se una memoria assertiva e rassicurante poi ne ha fatto questione generazionale, di studenti in vena di esuberanze giovanili. Quelle che passano con l'età. No, non eravamo soli. Anche i più miti tra gli adulti trovarono posto e ruolo, a volte determinanti. Come Caterina, per età più nonna che madre, che quell'ultima sera aveva preparato la cena e aspettato inutilmente il ritorno di Roberto. Neanche un avviso, un estremo saluto dal compagno più amato, che era andato a farsi ammazzare a Via Fracchia. Arrestata a più di 70 anni, non s'era fatta intimidire, soprattutto da chi voleva rinnegasse i suoi ospiti che l'avevano certo raggirata e usata. Oltre al sangue, quegli uomini in divisa volevano anche il discredito dei corpi morti dei suoi compagni. E in fondo, che le stavano chiedendo? Solo un pezzo d'anima in cambio dell'impunità. Ma Caterina non sapeva che farsene di attenuanti e patteggiamenti, era fatta dell'impasto dei giganti, e forte com'era delle sue ragioni e di un fiero senso di appartenenza a cui non è da tutti arrivare, rimase salda sulle sue gambe che conoscevano la fatica di tutta una vita. L'eredità che ha lasciato è sfida aperta a chiunque pensi di mettersi in cammino sulla sua stessa strada. Ero brigatista prima ancora di entrare nell'organizzazione. Ho la seconda elementare, quindi difficili ragionamenti politici non li so fare, ma capire da che parte stare l'ho sempre saputo. E poi c'è un pezzo altrettanto bello, ma non così entusiasmante, che riguarda poi quando il periodo degli anni 70 è finito e c'è stato il ritorno alla grande della borghesia, e dice: ricordo un risveglio tanto brutto che come un segnaccio di errore aveva spento ogni colore. Il mondo di nuovo in bianco e nero, abitato da replicanti che come nei film dell'orrore sembravano spuntare dal sottosuolo dove avevano vissuto nei lunghi anni della rivoluzione. Avevano denti affilati, vestiti appropriati e una vistosa assenza di umanità. Avevano coltivato un rancore che sfigurava i lineamenti. Volevano che tutto tornasse nell'unico ordine che definiva il sopra e il sotto, senza sconfinamenti. Sarebbero stati disposti a consegnare i loro figli a morte per asfissia pur di conservare la certezza di un mondo diviso e di un posto assegnato. Avevano rivestito il re e lo avevano rimesso sul trono del privilegio. Sembrava incredibile che avessero rialzato la testa dopo la grande paura. Ma succede sempre, come succede che gli strappi ormai inoffensivi diventino merci da vendere e comprare. Allora, a questo punto noi passiamo la parola a Barbara, e che ci racconti che cos'è questo libro. Sì, non è facile raccontare quello che si scrive, perché io sono convinta che i libri si scrivono un po' da soli, cioè non è che uno poi alla fine si trova delle pagine scritte che poi sono gli altri a interpretare soprattutto. Io mi meraviglio sempre di sentire poi come gli altri hanno letto le mie pagine, perché ognuno, no, è libero di trarne ma soprattutto è libero di farne nutrimento per la propria esperienza e per la propria per il proprio punto di vista. Quindi poi diventano tanti libri sostanzialmente, diventano tante pagine, tante cose. È la cosa più bella della scrittura, io credo, cioè questo ritorno indietro, insomma. Questo è il mio sesto testo, e è diverso perché, ma tutti, se vogliamo, se le analizzo uno per uno, tutti hanno una loro particolarità. È diverso perché forse è quello meno autobiografico, diciamo così, in cui c'è più racconto, più espedienti stilistici per poter dire delle cose. Il racconto fondamentale di questo testo è un incontro fra due donne in carcere, e questo è in parte inventato, in grande parte inventato, cioè nel senso che io questa donna in carcere l'ho conosciuta, mi ha molto colpito per il suo modo di stare fra di noi. Questa era una donna africana naturalmente, il suo modo di stare fra di noi era quello di rifiuto totale, cioè lei non accettava assolutamente nulla delle nostre imposizioni, anche se in carcere è complicato mantenere questa posizione, perché è fatto apposta più di altre istituzioni per omologarti a un certo tipo di comportamento. Lei questa cosa non l'ha mai fatta, non l'ha fatta neanche con me, devo dire, per cui non mi ha raccontato assolutamente una beata ceppa, perché non gli facevamo un po' schifo noi come occidentali e come modello, che tra l'altro lei aveva non condiviso, ma ha sicuramente, dentro questo modello ha trovato sicuramente un posto, perché questa donna era una corriera della droga a livello internazionale, non era neanche una ultima del carro, quindi era anche un'imprenditrice di questo commercio a suo modo, quindi non era sicuramente una grande vittima, però era la grande vittima della distruzione del suo mondo, diciamo così, del suo mondo originario, e la sua unica possibilità di entrata all'interno del nostro mondo, quello che è stato costruito all'interno di quei luoghi era dover guadagnare, perché noi costiamo tanto, perché il nostro modello di vita costa tanto, non c'è possibilità di starci dentro se non a livello di grossi compromessi. E da questo punto di vista lei si è comportata come tale, cioè quindi ha trovato il modo di guadagnare tanto, non capendo che era una trappola micidiale, infatti, e si è trovata dentro un carcere in Italia a partire dalla sua storia che era tutt'altro, che poteva essere tutt'altro. E quindi lei non mi ha raccontato questa storia che io racconto nel libro. La storia che io racconto è un espediente letterario per poter dire quello che volevo dire, cioè il fatto della sesta puntata di questo mio viaggio alla ricerca di una ragione. Com'è stato possibile che tutte le forze, le energie, le speranze, le idee di rivoluzione, di comunismo, chiamiamola come cavolo ci pare, ognuno per come l'ha vissuto, ognuno per come l'ha voluto esercitare, si siano infrante in questa maniera così decisa e addirittura sembra definitiva, no? Cioè, a volte ti dà veramente l'impressione che non ci sia possibilità di scampo da una simile deriva. Oggi, per esempio, nominare alcune parole sembra diventato quasi impossibile. Cioè, se uno dice socialismo, no, c'è un moto di cos'è? Ci devi aggiungere 400 aggettivi per poterlo definire in qualche maniera, e quasi sempre, anche a sinistra, che è la cosa che più ci interessa naturalmente, quasi sempre viene assimilato a una cosa non carina, dittatura normalmente. Guardate queste vicende ultime del Venezuela, insomma, no? Qui, per esempio, anche lì viene definita una deriva simile, insomma, per cui ogni volta che si riaccende un facsimile, un tentativo, un percorso, una cosa che può somigliare ad un tentativo di fare una società che non sia esattamente quella in cui noi siamo immersi, e immediatamente c'è l'alzata di scudi, perché ci sono alcune cose che non vengono rispettate, che sono le libertà personali, che sono le libertà, che sono i diritti della minoranza, persino quella che dà fuoco alle persone, insomma, diventa un diritto, e quindi è complicato capire la ragione per cui c'è stato, però bisogna chiederselo, cioè non è soltanto una volontà perversa da parte di chi ci governa e da parte di chi ha il potere mondiale. È evidente che all'interno, perlomeno per me è così, è evidente che all'interno di questo lungo percorso ci sono state delle questioni che vanno riesaminate, vanno capite, dove sta la nostra debolezza. Io quando dico nostra dico di un fronte, sostanzialmente, del fronte anticapitalistico in generale, poi all'interno ci stanno tante accezioni. Però perché questo fronte si è indebolito così tanto e sembra appunto che il capitale sia oggi l'unica strada percorribile, proprio oggi che sta dimostrando la sua estrema debolezza e caducità, nel senso che non dà neanche risposte a quelle che sono le sue premesse, perché in tutta evidenza continua a reggersi sul fatto che un grumo di abitanti di questo pianeta possono usufruire di certi privilegi, mentre tutto il resto se ne va a ramengo e non riesce neanche a sopravvivere. Quindi proprio nel momento in cui sta dimostrando la non veridicità della sua universalità, viene proposto come unico modello percorribile di civiltà, di democrazia, di diritti qua, diritti là. Proprio in questo momento c'è questa debolezza così forte dell'altro fronte, le cui ragioni non credo che siano venute meno, perché stanno tutte quante in bella evidenza, ma è chiaro che è venuta meno qualcosa, è venuta meno una capacità di incidere all'interno di questa realtà. Quindi ci sono state sicuramente delle battute d'arresto che ci debbono interrogare necessariamente se vogliamo continuare a pensare che questo mondo sia trasformabile. È evidente che quello finora prodotto non è stato all'altezza, cioè non ha inciso a livello radicale al punto tale da poter mettere il capitale alle spalle, con le spalle al muro. Io credo che se facciamo una disamina a livello globale di questo mondo che ci ospita, credo che la nostra incapacità di uscire da un paradigma di società legato a ad una idea di progresso e di sviluppo lineare in cui non ci sono limiti se non quelli della possibilità di metterci le mani sopra, sostanzialmente, che ci abbia condotto all'interno di una schiavitù di pensiero, che è esattamente quello che il capitale ha costruito. Il famoso sviluppo delle forze produttive che ci ha guidato nel Novecento attraverso varie vicissitudini, rivoluzioni, tentativi e compagnia bella, è uno dei paradigmi, io credo, che andrebbe guardato a fondo e meglio, perché sostanzialmente, e anche noi ne siamo corresponsabili, sostanzialmente è un paradigma che si è poggiato su un fatto molto semplice e anche molto evidente, credo, no? Il fatto che la nostra appunto parziale possibilità di poter vivere meglio, di poter avere delle avere un relativo benessere all'interno di questa società non solo è costato tanto, perché non nessuno ha regalato mai niente a nessuno, cioè è stato conquistato con lotte, galera, morti e compagnia bella, ma non solo all'interno delle nostre società, ma soprattutto si è appoggiato su un gravissimo una gravissima rapina per quanto riguarda chi non stava all'interno del nostro mondo migliore, che si è appunto gestito direttamente dalle società a capitalismo avanzato. Noi abbiamo noi tutti siamo all'interno di questa incapacità di incidere fino a questo punto, cioè di non capire che non potevamo vincere perché la nostra possibilità di vittoria poggiava appunto sulla distruzione quotidiana, con quello che abbiamo sotto gli occhi ma molto probabilmente stentiamo a vedere milioni di persone in giro per il mondo. Lo sappiamo questa cosa, la sappiamo a livello teorico, però non riusciamo a farla diventare politica, non riusciamo a se non in termini di carezza e di falso solidarismo, no? Di dire vabbè, gli diamo qualche soldino, gli diamo qualche possibilità in più, però non la facciamo diventare nostra politica quotidiana, e questo è un credo che ci condanni ad uno stato di minorità assoluta, nel senso che il capitale non avrà sempre partita facile da questo punto di vista, finché noi non riusciamo a capire fino in fondo quella che è una grossa lezione che pensavamo di aver assorbito nel Novecento rivoluzionario, cioè che il capitalismo è un sistema sociale, non è solo un sistema economico, ma è un sistema sociale i cui attori siamo anche noi. Quindi se noi all'interno di questo scacchiere giochiamo una partita che poi è anche indirettamente favorevole al fatto che questo sistema si perpetui, è chiaro, no? Che non stiamo facendo un lavoro che non è sicuramente a favore di quello che pensiamo di fare. Posso leggere un pezzetto rispetto a questo? Allora, circa metà mi pare. C'è un passaggio che parla di quello che dicevi tu. Dice: per affrontare il viaggio dovevo affinare il mio senso di orientamento e rivedere i miei radicati pregiudizi. Dove passa la linea di differenziazione tra le società sviluppate e quelle che non lo sono? Dalla scrittura, dal metodo storico, da quello della filosofia politica, dallo sviluppo mercantile dell'economia, dal tipo di religione? Diverse sono state le risposte, quasi sempre smentite da altre ricerche o risultate pure congetture. Semplificazioni di uno schema di autoconferma della propria superiorità da una parte sola. Sì, noi siamo saldamente poggiati su un sistema di valori che si è basato per la sua conquista mondiale attraverso tre o quattro idee forti, che sono state l'idea di civiltà, per cui i genocidi che ci sono stati nei secoli passati, che sono stati finalizzati alla rapina delle risorse, non altro, insomma. Cioè, noi ancora abbiamo le statue di, non ancora, ce l'abbiamo belle salde, le statue di Cristoforo Colombo, e viene, no, santificato come quello che ha scoperto l'America. Sembra una stronzata, però quello è veramente l'emblema di uno dei principi fondanti della nostra cultura. A parte la scoperta di che già c'era, quindi non è che ha scoperto chissà che cosa, ma poi era un soldato di ventura che è andato lì da parte di una corte a rubare quello che c'era da rubare. Questa cosa qui è stata possibile, compresi appunto i genocidi che ci sono stati, è stata possibile perché nella testolina, appunto nelle nostre culture, il discorso della differenza di grado di civiltà, non della differenza di civiltà, perché quella c'è, ma quella differenza di grado di civiltà è sempre stata molto forte, cioè nel senso che la nostra idea di sviluppo della storia è questa, no? È uno sviluppo di storia in avanti, per cui le società che stanno più indietro dovrebbero avere come modello di riuscita eguagliare la nostra. Poi che questo sia una partita assolutamente truccata, perché poi nessuno concorre affinché questa avvenga, ammesso che sia legittima questa cosa, toglie completamente una possibilità di comprensione che non è vero che esiste un solo modello. C'è un modello dominante sicuramente, ma non è l'unico possibile di percorrenza. Faccio una premessa perché sia chiaro questo discorso: io non sto facendo nessun ragionamento di tipo nostalgico, cioè di dire i paradisi perduti che semmai ci sono stati, il modo di vivere di una volta, non è quello il punto. Il punto è che forse, se guardiamo bene, forse c'è qualcosa che ci può riguardare rispetto appunto a sistemi diversi dal nostro, per tirarci fuori da questa situazione, perché il malessere è enorme, io credo, anche se non riusciamo neanche ad esternarlo, no? Siamo talmente talmente impossibilitati a riuscire a esprimere una critica che diventi forte, che diventi capace di modificare qualcosa nel nostro esistente, che veramente ci stiamo avviando fortemente verso una situazione di atarassia, cioè di accettazione, comunque di accettazione di possibilità di non vedere oltre il nostro piccolo orticello, altrimenti non si capisce, altrimenti veramente non si capisce come è possibile che noi riusciamo persino ad accettare, a sopportare, ecco, l'idea che ci sia, che ci siano migliaia di persone che vengono ammazzate dai pescecani nel Mediterraneo. Addirittura a questo siamo arrivati, insomma, che ci siano delle persone che per un divieto stupido, perché se ci pensate, se ci fosse la libera circolazione, tutto questo non avverrebbe. Molto probabilmente queste persone se ne tornerebbero al loro paese invece che stare qui a essere trattati come schiavi, che comunque è sempre stato così, perché il mondo si è formato appunto sulla libera circolazione, non certo sui muri e sui decreti di Minniti. Ma addirittura che questa cosa sia diventata questo spauracchio così, così grande da farci accettare un orrore simile, cioè, giustificata dal fatto che ci vengono anche a dire i nostri politici che gli sbarchi sono diminuiti. Quindi c'è questo scarto continuo, questo secondo registro in cui ci viene narrata la nostra realtà, che è sempre un altro, cioè non è quello della vita reale che noi facciamo, e non è neanche in sintonia con quelli che sono i principi borghesi, oltretutto. Quindi è una doppia negazione dello stesso registro borghese, cioè la razionalità illuminista da cui noi teoricamente veniamo, che poi nella realtà ne manco più quella, ma diventa veramente una continua mistificazione sui termini stessi, per cui poi quello che succede in Israele si chiama occupazione, quello è colonialismo, non è occupazione, è apartheid, non è una semplice occupazione. Le guerre sono umanitarie, oppure sono portatrici di democrazia addirittura, quindi il progresso scientifico e tecnico viene preso per una valenza di come se fosse una cosa neutra, no? Come se la tecnica cioè avesse appunto un potere neutro e non è legata ad un, per cui la Lorenzin ti può imporre i 12 vaccini perché la scienza, altrimenti passi per uno che non... Addirittura un ipse dixit adesso, sì, la scienza. Sì, quello non, che dice è sacrosanto. Sì, è così, non è che puoi minimamente esercitare un tuo diritto alla comprensione, alla critica, all'informazione soprattutto, rispetto a quello che dovresti fare, ma viene fatto per decreto, quindi è una negazione stessa di quello che loro dicono essere i principi borghesi da cui è nata questa, quindi è un triplo salto mortale. Noi effettivamente siamo in una situazione di confusione, perché gli input che arrivano sono sempre traversi, cioè nel senso che dovremmo sempre cercare di capire, non per, ovviamente non per cascare nella dietrologia, per carità di Dio, ma di capire cosa c'è dietro a un certo tipo di posizionamento. Sicuramente il trucco c'è, diciamo così, in maniera molto banalizzata, però sicuramente c'è qualcosa che non è chiaro. Io volevo leggere un altro pezzo che parla della nascita del capitalismo, ed è particolarmente interessante, nel senso così come resa anche istintiva, no? Dice: vedeva baracche e casupole affollate di famiglie promiscue, vedeva l'assenza di acqua corrente, strade di fango, miseria e malattia non curate, creature tenute nell'ignoranza e nel ricatto del bisogno. È cominciata così, in un paese a nord della civile Europa, privo di vincoli di legge, ricco di razzie coloniali, manodopera a infimo prezzo, capitali e innovazioni tecniche. Vedeva un esercito di bambini messo a lavoro ai ritmi delle nuove macchine, ancora meno pagati degli adulti, più facili da piegare alla disciplina, di nessuna scolarizzazione, corpicini malati, denutriti, destinati a vita breve per la fatica. I fiumi di carbone, le punizioni, vedeva adulti deportati dalle campagne comandati a ritmi sconosciuti e nessuna padronanza di tempi e di abilità manuale, immiseriti dal deprezzamento del lavoro e dei prodotti della terra, deprivati di ogni pensiero, con la sola facoltà necessaria per continuare la sequenza di gesti ripetuti, dall'alba a sera, per poi ritrovarsi in quelle strade disastrate con in tasca le uniche monete per qualche bicchiere a buon mercato. Una catastrofe umanitaria. E non solo per le pance vuote e i pidocchi in testa, ma anche per la perdita di quella capacità millenaria di saper fare, di saper costruire le condizioni materiali di esistenza, seppure minime, secondo le stagioni e le fortune, ma al passo di un ritmo umano di esistenza. Perdita che li condannava a restare vincolati alla lunghezza della catena concessa dal padrone, al suo sistema chiuso di capitale morto che divora lavoro vivo, tutto alla velocità che non consente respiro e con la violenza che non ammette alternative. E poi c'è un ultimo pezzo, questo per tutto il tempo del perfezionamento del meccanismo dello sfruttamento, fino al prevalere delle microcompetenze, dell'interfaccia, del parassitismo su ogni capacità e ingegno, pezzi di una macchina, meno preziosi di un avanzo di ferro inanimato, che non si aggiustano, si sostituiscono. Nessuna meraviglia del progresso è mai stata usata per alleggerire simili pene. Solo i dannati ci sono riusciti raddrizzando la schiena, facendo entrare aria nei locali, sovvertendo le regole, osando sfidare l'impensabile. Ma c'è sempre voluto un corpo a corpo e sempre stato pagato un alto prezzo. Ah, se ci pensiamo, questa è proprio la descrizione dell'industrializzazione in Inghilterra. Li troviamo tranquillamente nei libri, sia nei classici, ma sia anche nella letteratura. Effettivamente è stato questo, no? Una capacità da parte di un paese come quello, che poi è stato la madre di tutte... Non è vero che sono gli americani i capitalisti, perlomeno la testa pensante non sta lì, quelli sono dei cowboy, quelli fanno... No, adesso sì. È sempre stata l'Inghilterra la testa pensante di questa cosa. E l'ha fatto sulla base di quattro cose, cioè soprattutto la libertà d'azione, cioè il fatto di poter impunemente, sempre su questo criterio delle bandiere della civiltà al vento, aver potuto rubare sia le risorse che le condizioni di vita di milioni di persone in giro per il mondo hanno costruito la possibilità della ricchezza, della prima accumulazione capitalistica. Se noi guardiamo, e le condizioni erano quelle, in parte quelle descritte, insomma, ma non è che sono cose che bisogna arrivare a Dickens per trovarle, insomma, cioè se chiunque, non molti di voi, ma qualcuno di voi, magari ha anche memoria, no? di simili miracoli, diciamo così, in cui vengono tenuti sottoposti, che non hanno mai scampo, se non appunto quando raddrizzano la schiena. Non c'è mai progresso nelle famiglie operaie e proletarie se non quando si mettono di traverso rispetto a quello che la legge consente, a quello che la legge del padrone consente. Ma questa descrizione qua, che oggi è ancora più drammatica se andiamo a guardare i paesi che appunto non sono quei pochi in cui noi siamo, di cui noi siamo abitanti, adesso è ancora più drammatica la cosa, perché lì si trattava dell'inizio di un ciclo, adesso si tratta della fine di un ciclo. E quindi è diventato senza speranza, cioè quelli che appunto i milioni di persone che transitano oggi all'interno di quelli che vengono chiamati campi d'accoglienza in giro per il mondo, è una situazione veramente di un paradosso micidiale, cioè uno deve ricorrere veramente alla letteratura, altrimenti non si capisce in termini di linguaggio politico che cos'è quella roba. Cioè, non so se vi è mai capitato di leggere Homo Sacer, che è un testo, è un piccolissimo testo, però è molto denso come sistema. Ed è un testo di filosofia, non è un testo di politica o di storia, è un testo esclusivamente di filosofia. Però ti dà un'immagine di quello che è oggi un paradosso che però diventa quotidianità, in cui ci stanno migliaia di persone che si muovono all'interno di questi campi, chiusi dentro questi campi, che non fanno altro che muoversi all'interno di un recinto, e fanno anche famiglia, adesso sono diventati più di una generazione che vivono all'interno, ci sono i piccoli commerci, c'è ovviamente un po' di prostituzione, un po' di spaccio di non so di che, e quella è diventata vita quotidiana per chi per gli esuberi, sostanzialmente, per chi non troverà mai posto dentro questa cosa, perché la fine del ciclo ha significato questo scarto, cioè quello che una volta veniva definito il sottoproletariato, cioè l'esercito industriale di riserva, tutte le cose che sappiamo, no? Oggi non è più così, perché il ciclo del lavoro è finito, o perlomeno nelle nostre culture, quindi non c'è posto neanche per questo, non c'è posto neanche per queste figure che sono state quasi sempre all'interno della politica, del pensiero marxista, perlomeno quello più dominante, insomma, poi del pensiero marxista ce ne stanno tanti, quindi non è che si può generalizzare, però sono quelle figure, no, che sono sempre state viste un po' così, che è il ladro, è la prostituta, è il poveraccio che si arrabatta, ecco, sono queste figure un po' così che poche volte, diciamo, hanno trovato all'interno della politica rivoluzionaria una possibilità di alleanza con le figure centrali, tipo la classe operaia o appunto il proletariato laborioso. E se voi pensate alle nostre città, alle nostre metropoli, noi siamo ancora un po' periferia, insomma, però basta arrivare in Francia per capirla questa cosa, per esempio, ecco, se non si capisce che questo nuovo paradigma che ci viene sollecitato ogni 5 minuti non ci faranno modificare il nostro sistema di vita, è la cosa più pericolosa al mondo, sia per noi che per chi no, deve registrarlo dall'altra parte della barricata. Perché è proprio il nostro sistema di vita che sta creando questa situazione. Io, a me non è che, tanto per chiarire, non è che mi stanno simpatici questi signori che vanno mettendo bombe e ammazzano la gente comune, diciamo così. Però non è che si può non capire quello che sta succedendo. Cioè c'è un'esclusione tre quarti dell'umanità, praticamente, a causa appunto delle nostre politiche occidentali, e non ci si può meravigliare che a un certo punto non ci sia una reazione possibile, perché avviene all'interno delle nostre città, appunto, perché l'abbiamo fatti entrare. E una volta che l'abbiamo fatti entrare, bisognerebbe anche capire come avere una capacità di politiche che siano in grado di mettere insieme i proletari delle nostre città con i proletari che vengono ancora definiti appunto come sottoproletari o come esclusi comunque da ogni... se non riusciamo a trovare questo tipo di politica alta in grado di fare questo tipo di passaggi, noi non solo continueremo a dover assistere ad una guerra continua, sempre di più, E il fatto che non, il fronte non stia esattamente, o perlomeno quello ufficiale non stia, non ce l'abbiamo esattamente in casa, è un'altra mistificazione. Non è vero che è così, perché magari ce l'abbiamo alle porte, ma facciamo finta che non sia, no? Facciamo finta che sia da altre parti, perché la democrazia europea è riuscita a fare questo bel regalo di regalarci la pace. L'Ucraina non è Europa. L'Ucraina non è, ma non è neanche la Jugoslavia, non è niente, non so che cos'è. Appunto, è un continuo altro registro che spudoratamente, ma veramente spudoratamente, ridisegna una realtà che nessuno di noi può essere in grado di esperire. Se la realtà, se fai esperienza della realtà, i risultati sono diversi, perlomeno di quello che uno riesce a capire di quello che sta succedendo nel mondo. Quindi con una spudoratezza incredibile, cioè un continuo ribaltamento delle direttive in cui uno deve essere in grado di percepire quello che c'è intorno, ma soprattutto appunto di riattraversarlo e avere una coscienza critica per poterlo analizzare. No, tu puoi soltanto aspettare che qualcuno ti racconti quello che devi percepire, non quello che umanamente è consentito percepire. Ed è drammatica questa cosa, cioè i nostri ragazzi, queste nuove generazioni sono veramente sottoposti a un tipo di tantam che li sta rendendo veramente innocui rispetto al potere. Non si riesce a capire perché si fanno le inchieste nelle scuole e si tira fuori che la conoscenza, no? Nonostante tutti gli strumenti apparentemente apparecchiati per avere informazioni e conoscenza, non si riesce a capire perché questi ragazzi non hanno un minimo di capacità di comprensione del passato recente, per cui non si sa che è successo a Milano nel 69, o chi ha messo ste bombe o chi non l'ha messe, e chi sono le Brigate Rosse e che hanno fatto queste cavolo di Brigate Rosse. Quindi nessuna capacità di conoscenza, che è un paradosso, veramente un vero paradosso nell'epoca della conoscenza, no? Nell'epoca dell'informazione, in cui abbiamo strumenti che teoricamente ci mettono in rapporto quotidiano con tutto il mondo, poi non ci lasciano neanche il tempo di rielaborarla sta capacità, e quindi uno passa da in un eterno presente, non c'è nessuna possibilità di scavare minimamente. Io sono più anziana e quindi penso che perlomeno questo è il mio percorso, fatto dal momento in cui ho messo piede fuori dal carcere e ho percepito la grande trasformazione che era avvenuta. Forse appunto dal mio punto di vista, essendo stata staccata dal quotidiano degli anni 80, 90, eccetera, la mia percezione è stata più violenta di chi l'ha vissuta giorno per giorno, perché appunto l'ha assorbita giorno per giorno e ha dovuto anche trovare le mediazioni possibili per poterci vivere dentro. Per chi questa cosa non l'ha fatta perché veniva da una situazione di separatezza come la mia, l'immagine è stata assolutamente terrificante, cioè non aver trovato uno degli appigli che ti danno anche la spinta, no? Per continuare a lottare, a combattere, a definirti anche in una determinata maniera rispetto alla società che vivi, in questo magma indistinto, non ci si capisce assolutamente niente, in cui gli operai votano Lega e che se vuoi si capisce anche perché. e la sinistra quella ufficiale, quella istituzionale è diventata sempre più il manganello per tutti. Già stava sulla buona strada, non è che era, però adesso è veramente un paradosso, veramente non si capisce perché siedono ancora a sinistra nell'emiciclo parlamentare, cioè sono la vera destra, il problema è che è tutta destra, cioè non è che ci sono le varie all'interno di questo meccanismo infernale, però io credo che cercare una via di fuga, cioè cercare una possibilità di comprendere prima di tutto quale può essere una collocazione in tempi così, così grigi. E io credo appunto che il rovesciamento di questo registro che ci viene presentato, che nei momenti di alta delle lotte diventa pratica, diventa pratica di strada, diventa pratica, pratica, sì, ognuno poi la interpreta come vuole, in tempi in cui è più difficile che questa cosa avvenga in questa maniera, il discorso dello svelamento continuo di che cazzo è sto potere diventa veramente un compito fondamentale, perché non gli si può lasciare scampo da questo, almeno da questo punto di vista, almeno dire non mai convinto, insomma non è così, e quindi tentare almeno di svelarlo, ecco, quando è possibile, perché la realtà è questa, è questo svelamento, dipende da questo svelamento la realtà vera, il resto è fittizio. E siccome il comunismo è sempre stato il movimento reale, è questa la realtà che va presa di petto e combattuta, però dobbiamo anche capirla, perché altrimenti ne continuiamo a essere complici, anche se senza colpa, però ne continuiamo a essere complici, non riusciamo a metterla sta zeppa, non so se... Ma a me, quando mi sono venute in mente due cose, no, mentre parlavi, all'inizio ti sei chiesta, cioè hai posto la domanda, com'è che proprio adesso che questo capitale, vabbè, secondo loro è in crisi, noi sappiamo che non è una vera e propria crisi, però comunque non ha più molto da offrire, sta infrangendo molto delle sue promesse, crea delle condizioni sempre più gravi economicamente, di esclusione, com'è che proprio adesso la sinistra in senso lato, i compagni sono così deboli, e soprattutto la capacità di immaginare qualcosa di oltre, no? È così scarsa. Ma non vedo contraddizione tra queste due cose, cioè mi sembra che io, per esempio, sono molto tempo all'università, no? Adesso sto dall'altra parte, mi sono laureata. Questi 10 anni di crisi là dentro mi sembra che abbiano davvero segnato il passo. Cioè, lo studente universitario che entra adesso, a parte che c'è il 30% di meno delle persone, là c'è l'università è quasi vuota, nel senso è un luogo che sta morendo, no? Cioè, però quelli che ci stanno, indipendentemente dalla loro collocazione di classe, nel senso proprio di reddito, hanno così paura del fatto che non c'è un cazzo di futuro, che non ci avranno, che il lavoro è finito, che cioè è un'intuizione che c'è, cioè lo sanno tutti, no? Che questo ciclo del lavoro si è esaurito. È proprio questo che fa paura, è proprio per questo che tutti corrono disperatamente, perché sperano di essere gli ultimi a salire su un treno che si sa che sta correndo, no? Quindi io trovo che ci sia una, e anche questo i flussi di persone che arrivano, no? Di immigrati, non fanno altro che rendere visibile cosa succede se poi ti escludono. E quindi la corsa all'integrazione, a voler essere integrato, a voler far parte di questo meccanismo che sai che sta morendo, però guarda che cosa c'è dall'altra parte. Cioè ci stanno i centri di concentramento, no, oppure c'è la repressione, oppure, no? E io per questo dico non vedo contraddizione, perché è proprio quando le cose si mettono male che la paura e il terrore, diciamo, no, prende il sopravvento. Allora, da questo punto di vista, la responsabilità di dei compagni, di chi è qui per testimoniare un altro modo, no? La responsabilità di non additare, per esempio, gli esperimenti che in altri paesi del mondo stanno facendo, come, perché pure a noi compagni un po' ci piacciono soltanto quando sono morti, quando sono repressi, quando falliscono, quando, no? Allora là vediamo tutta la purezza dell'ideale rivoluzionario, però quando invece ci cerca di costruire un'alternativa con le sue contraddizioni, con le sue deviazioni, con tutto quello che c'è da fare, allora là siamo pronti a dire quella è una dittatura, quelli sono falsi comunisti, quelli sono religiosi, quegli altri, e proprio non lo accettiamo. Questo è l'eurocentrismo e, diciamo, la, cioè secondo me più pericoloso, perché a un certo punto noi sì che siamo in questo, nel cuore dell'impero, però siamo davvero tanto fragili, e secondo me non saremo poi noi in questo momento a, cioè non siamo qui ora in Europa, in Italia, in questi paesi, non siamo in una fase né pre-rivoluzionaria né tantomeno rivoluzionaria, no? E siamo e quando gli altri conducono le loro battaglie, siamo pronti qua dal nostro bicchiere di vino a dire che stanno facendo male, che lo stanno facendo così, fondamentalmente forse perché abbiamo paura di essere superati? Abbiamo paura di essere superati a sinistra da qualcun altro? Beh, io credo che la centralità del... la nostra centralità ce la difendiamo sempre e comunque, perché altrimenti non... tutto quello che è passato nella storia dei popoli non riusciremo neanche a spiegarlo, no? Abbiamo sempre pensato che era... Io la prima volta che ho sentito un discorso di Vandana Shiva tanti anni fa, che diceva sostanzialmente, vabbè, voi occidentali dovete capire che al massimo ci potete dare un appoggio, ma non siete più centrali voi nello scontro. Un po' mi è girato, devo dire, perché ho detto, ma guarda questa, no? Dove se n'è partita? Noi, no? Noi, la centralità della filosofia tedesca, Marx, tutto quello che abbiamo rappresentato a livello rivoluzionario, cioè arriva questa dall'India, che con le vacche sacre ci viene a dire che noi siamo a retroguardia, ma come si permette? E sto giocando naturalmente, però questa nostra centralità ha molti aspetti, tra cui anche questa, anche nonostante tutte le cattive prove, oltretutto, no? Ancora non recediamo un passo da questa cosa. Però per quanto riguarda la cosa che dicevi te, una volta, cioè nel Novecento, il secolo delle guerre e delle rivoluzioni, anche se poi abbiamo capito che non era esattamente così, però il mondo era diviso in due, c'erano due ipotesi, due, non ce n'era una sola di ipotesi, quindi c'era un percorso capitalistico e il percorso socialista che doveva, no, portarci ad una transizione che non è mai stata mai da nessuna parte, e quindi anche questo è un altro bel interrogativo: come mai questa cosa è successa? Perché le ragioni ci stanno tutte, non si capisce perché ci siamo fermati in questa maniera. Quell'alternativa è finita, ed è finita proprio nel momento in cui è crollato anche un mito, cioè il mito quello che a partire dalle città inglesi del secolo, un secolo e mezzo fa, insomma, parlavano di progresso e di sviluppo e compagnia bella. Oggi chi è che può dire una cosa del genere e senza arrossire? Cioè ci sono le statistiche, no? Il mondo che è governato da 10 famiglie, il resto sta la fame praticamente, chi è che può dire lo sviluppo capitalistico porterà il benessere, cioè, però non lo dice, ma è un diktat praticamente. Allora, è vera questa cosa che tu dici, ci può essere anche consapevolezza della miseria in cui ci muoviamo, ma il fatto che questa consapevolezza diventi una forza reazionaria, cioè di dire se io però sto più accanto al padrone mi salvo, se io invece al padrone gli do battaglia perisco, che consapevolezza è? Cioè è disperazione, è una cosa che non c'ha alternative, e questo è il problema. Quello che sto tentando di dire è esattamente questo, cerchiamolo questo punto in cui si è inceppato tutto il meccanismo, cerchiamolo e cerchiamo di superarlo, che se poi oggi, appunto, sono d'accordo con te, non si può parlare sicuramente di momento rivoluzionario, ma non è che quelli ce ne stanno sempre, cioè le occasioni a volte si perdono ed è un dramma. Per ricostruirle è un dramma vero, insomma. Però voglio dire, se scaviamo all'interno della nostra storia, anche senza arrivare agli antichi egizi, magari il punto di partenza lo ritroviamo, ma quello lo dobbiamo fare, non è che ce lo regala qualcuno. E se ancora non mettiamo in discussione le categorie che ci hanno portato a sto intoppo, oppure pensare che appunto lo sviluppo lineare sia ancora una questione affrontabile, cioè ieri, ciao! Cioè, ieri contemporaneamente, no, c'è nella televisione, ho trovato due notizie, cioè delle persone strane che hanno fatto il giro dell'universo e sono ritornate sulla Terra, quindi con un dispendio, credo, di denari che non oso neanche pensare. Che serve questa cosa, qualcuno prima o poi ce lo dovrà spiegare, perché tutta questa scienza non mi sembra poi rapportata a quello che è la nostra vita, no? Che se fosse rapportata al benessere delle popolazioni, ben venga, ma siccome non mi pare che sia così. E contemporaneamente ci sta il fatto che ci sta mezza Italia sott'acqua perché guarda caso piove. Raga, voglio dire, non è una crisi, è peggio di una crisi, cioè è un delirio, però anche di questo ci stiamo rassegnando, no? Anche a questo ci stiamo rassegnando. Vabbè, io volo ringraziare Barbara e Coordinamenta, perché inanella una serie di iniziative, secondo me, proprio oltre insomma, all'essere interessanti, anche insomma una certa coerenza all'interno. E io sono super contento di sentire alcune cose e non uscire insomma dalla bocca di un intellettuale, perché ma di una compagna, di una combattente, e questa cosa mi fa sentire un po' meno solo, sinceramente, perché alcune tematiche che hai affrontato e hai detto oggi, cioè per noi, però verbalmente insomma, sono pane quotidiano da tempo. Poi insomma chi segue le iniziative di Coordinamenta e ha già sentito cose simili, ma insomma le tematiche che sono uscite fuori sono tantissime, sono super interessanti, cioè secondo me centrale è questa proprio messa in critica radicale, cioè dell'eurocentrismo, dello sviluppo lineare della storia. E a questo proposito ti volevo chiedere, cioè, se e quanto, cioè, dal punto di vista, cioè, teorico, magari delle letture, cioè, per voi sia stato importante anche leggere insomma le opere di Mao Zedong, se questa cosa per voi insomma è stata una diciamo un processo diciamo autonomo, cioè di considerazioni che avete sviluppato insomma in autonomia, oppure se siete state, se sì, quanto influenzate anche dal pensiero del cosiddetto marxismo cioè non europeo. E perché la tematica del progresso, la tematica della civiltà, in una parola, insomma, in poche parole, insomma, utilizzando una formula dello sviluppo lineare della storia, è stato il vero motivo per cui il cosiddetto eurocomunismo poi alla fine è stato opzionato, cioè, dal grande capitale per portare il colpo, cioè, a livello più profondo di quanto sono mai riuscite, cioè, fosse mai riuscita qualsiasi ideologia reazionaria o cosiddetta di destra storica. E questo secondo me è proprio una, un qualcosa, cioè, di eccezionalmente, cioè, centrale, e sono finalmente contento, insomma, di sentirlo pure, insomma, dalla voce di una compagna e non di un intellettuale, insomma, da salotto, perché ce n'è bisogno proprio. E un'altra cosa è che poi vedo, a proposito appunto della coerenza e di questo filo rosso, insomma, che collega le varie iniziative, cioè vedo che anche, cioè, è ricorrente anche un'altra tematica, è quella dell'alleato, ovvero di renderci conto che in quanto c'è compagni e compagne bianchi del cosiddetto primo mondo, insomma capitalismo avanzato, cioè noi ci dobbiamo porre realmente, cioè, la questione, cioè, di come è possibile per noi, cioè, dare sostegno alle lotte che in questo momento, ma da tempo, diciamo, sono più avanzate sul pianeta Terra, e noi non siamo più i protagonisti di questo. E forse prima comprendiamo, insomma, questo passaggio, e prima smetteremo, insomma, cioè, di essere di fatto, come proletariato occidentale, in tutto e per tutto degli antagonisti del proletariato del cosiddetto, insomma, terzo mondo in via di sviluppo, perché adesso conta più, diciamo, il nostro stile di vita energivoro, eccetera eccetera, e piuttosto, cioè, che le nostre dichiarazioni, cioè, di intenzioni, perché come sappiamo, cioè, è così che è lastricata la strada verso l'inferno, e quello secondo me dove siamo diretti, cioè, se non affrontiamo realmente questa questione, cioè, come possiamo dare sostegno ai compagni e alle compagne che in questo momento, cioè, nel mondo stai, non è nostalgia per un periodo d'oro in cui anche noi nell'internazionalismo davamo un contributo, ma questa, cioè, questa tematica è super attuale, cioè, parliamo di India, in India ci stanno milioni, cioè, in India, cioè, si è verificato lo sciopero di lavoratori e lavoratrici più grandi della storia dell'umanità, cioè noi ormai siamo la periferia di questo movimento qui. Non vuol dire che non possiamo fare la nostra parte, però, ecco, cioè, dobbiamo veramente renderci conto che purtroppo adesso a chiedere la no-fly zone, cioè, sulla Libia bombardata poi, cioè, dai Mirage francesi, o a chiedere l'intervento, capito, cioè, umanitario, il bombardamento etico, cioè, sulla Siria, sull'Iraq, cioè, è la sinistra occidentale. E questo è un bel dramma, non so, cioè, se magari è arrivato veramente il momento, cioè, di riflettere su queste tematiche, quindi, insomma, ti ringrazio per averlo sollevato. Ma io, per quanto mi riguarda personalmente, a parte, insomma, il fatto di averci un po' dedicato la vita, no, alla politica, e quindi non aver ritrovato una collocazione possibile dopo gli anni della galera, non aver neanche trovato motivo per cui rinuncia alla possibilità di continuare a capire questo mondo come gira, e quindi come fare ad incepparlo in qualche maniera. Io dico, più che Mao Zedong, che negli anni della mia formazione, diciamo, dei testi classici del pensiero politico, più che Mao Zedong, perché lo trovavo distante, perché c'aveva anche un modo di porsi distante, perché Mao Zedong si rivolgeva a una miliardata di contadini analfabeti, e quindi c'aveva per forza di cose, no? Quindi dopo la 18ª volta che ti spiegavo lo stesso concetto, dicevo, hai capito, vai avanti per cortesia. Quindi io mi sono molto più ritrovata all'interno della mia cultura, quindi sicuramente in Marx, in cui ho amato tutto, sia i testi di economia politica, sia i testi storici, che mi sono sembrati veramente molto belli, anche un modo di scrivere molto, molto bello. Però ci sono stati anche altri autori che a me mi hanno influenzato, perché poi io in galera mi sono laureata in antropologia, cioè avevo già una laurea in filosofia e mi sono laureata in antropologia in galera, cioè il tempo, insomma, quindi fai cose, tenti disperatamente di illuderti di essere vivo, e quindi, no, c'erano questi echi che all'esterno, la società multietnica, e quindi ho pensato che gli studi più adatti per questo periodo fossero questi, e ho incrociato degli autori che mi hanno sicuramente influenzato, da da Levi-Strauss, sicuramente c'è questo modo di approccio appunto alla fine dei viaggi e compagnia bella, però a livello, diciamo così, storico, per me la guida è sempre stato Benjamin, quello dell'angelo, eccetera. Perché? Ed è, questo è anche un mio modo di... cioè non è soltanto una questione teorica, insomma, è proprio una questione che poi mi porta ad un mio modo di muovermi nelle scelte che faccio. Perché io credo che quelle leggi storiche, quella legge storica che Benjamin descrive così bene, poi lo descrive anche con una scrittura non pedante, ma immaginifica, questa cosa che appunto è l'esatto contrario dell'idea dello sviluppo lineare, ma è perché non è che tu ti muovi da un punto per raggiungere un obiettivo, che no, è un modo occidentale più deteriore, io credo. Ma che è l'esatto contrario, cioè ti muovi in una determinata direzione e ti muovi all'indietro, cioè nel senso che l'origine è la meta e non il contrario, perché da quello riparti, perché la storia è una storia di occasioni perdute, la storia è una storia di cose che potevano essere realizzate e non si sono realizzate. Non è che ci possiamo continuare a martellare, no? I cosiddetti, bisogna capire dov'è che il non realizzato si è inceppato. È fondamentale questa cosa, altrimenti non si rimette in moto, no? Nessun meccanismo di... anche di ritrovata fiducia, no? Nessuno lotta se non c'ha davanti una chiarezza di percorso, nessuno si fa ammazzare perché così, perché è incazzato, sì, qualcuno magari lo fa pure, ma non è un gran modello, no, diciamo così. Cioè uno è capacissimo di mettere in discussione qualsiasi cosa della sua vita se c'è chiaro davanti un percorso. E questa cosa qua, io guarda, con i miei libretti giro parecchio e devo dirti che non è che in questo paese non ci stanno le persone, ma ci stanno e come? Lo so. Ci stanno e il problema è che non ci sono idee forti, non ci sono idee che mettono insieme e diano appunto l'energia giusta per poter che appunto ti diano una prospettiva non di 3 giorni, insomma, che ti diano un percorso. Io per esempio gente così l'ho trovata in Val di Susa, per esempio, però quello non è che sia esattamente un modello che si può trasportare in qualsiasi situazione, no, anche perché là ci stanno 20 anni di lotta, ma c'è una storia, soprattutto una storia, quindi dovremmo tutti quanti guardare la nostra storia e capire no? Che cosa c'è da cosa ci abbiamo da recuperare e cosa ci abbiamo da buttare a mare, e senza paura, perché possiamo anche farlo. Marx non esce fuori dalla sua tomba, ci viene a tirare i piedi se diciamo qualcosa che non sia esattamente in linea. E io poi, mio personalmente, cioè tutta questa cosa non ce l'ho mai avuta così. Religiosa. Sì, così religiosa, no, non ce l'ho mai avuta. Io credo di aver capito molto bene che cosa scriveva lui, perché ci avevo dietro un pregresso di una storia familiare. Perché l'alienazione del lavoro capitalistico l'avevo visto in faccia a mia madre quando tornava dalla fabbrica, perché l'impossibilità di esercitare appunto una capacità di costruirsi le proprie condizioni di esistenza, come in molte altre economie diverse dalla nostra, ci sono sempre state, ci sono anche tuttora, perché altrimenti i morti sarebbero molti di più, al di là di questa manfra degli aiuti umanitari. Poi uno diventa volgare, quindi facciamo finta di niente. di aver perso quella capacità che le culture contadine ci avevano. Lei veniva da una cultura contadina e quindi quella cosa si capiva benissimo dal suo tipo di comportamento. Poi io l'ho trovata scritta bene, teorizzata bene, scritta in bella copia praticamente, però non è stato così complicato e neanche così distante, perché il percorso concreto stava nelle stanze di casa mia, stava nelle facce dei miei fratelli, appunto di tutti quelli che stavano vivendo quel tipo di esperienza che da una parte dava speranza e dall'altra parte era un inferno. Quindi ritrovare le nostre origini, le nostre radici, da dove siamo partiti, dare anche spessore ad una storia, perché altrimenti veramente è sempre presente. E oggi già cambia rispetto a ieri, per cui già no, non riesci a sedimentare nulla, perché sei sempre balli sempre sulla cronaca quotidiana. E non è un modo veramente di far entrare acqua nel cervello, io credo, non c'è. Quindi bisognerebbe un attimo di distanza da tutto sto balletto, queste vetrine, queste cose, e farci gli affari veri, insomma, cioè capire esattamente cosa che ci serve e che cosa vogliamo. Ci sono delle beh, questa ve la devo dire, però, perché non riguarda... Sì, riguarda tutti in effetti, anche se riguarda in maniera particolare la mia storia, però hanno chiuso l'ennesima commissione Moro, perché poi non so se magari no, questa cosa non la seguite bene di voi perché non vi interessa di meno, però è così, perché sono 40 anni che fanno commissioni perché devono dimostrare l'indimostrabile, quindi non riescono a chiuderle queste commissioni, perché è difficile, no? E questa qui in particolare è ancora più patetica di quelle precedenti, però ha chiuso un'altra mistificazione grossa, cioè tutti gli anni 70, tutta la ricchezza degli anni 70, le conquiste, i movimenti, i gruppi, le singole, tutto quello che è successo negli anni 70 praticamente è chiuso dentro un pacchetto che si chiama 16 marzo 1978, che è una operazione chiarissima, non è che si... quindi questo 16 marzo è calato da Marte, non è che è stato, no, all'interno di una dinamica che si può individuare, capire, eccetera, eccetera, ma è venuto, si capisce bene da che cosa, e che oltre a non aver portato a niente, perché la famosa sinistra, no, ha dimostrato ampiamente che le masse erano contrarie, e quindi la sconfitta è stata data da rifiuto della democrazia, non da chissà quale altro impedimento, non è solo questo, ma poi so pure un po', si capisce bene, no? Come è andata la cosa, se c'è qualche zampino strano del doppio stato, poi che è sto doppio stato, qualcuno l'ha capito, boh, si sa che è sto doppio stato, i servizi deviati, quali sono quelli dritti e quelli deviati, cioè, ovviamente si parlava di doppio stato durante il nazismo, quella era una teoria che aveva un senso, cioè, è stata ripresa in pieno, stata ripresa in pieno, quindi questi qua adesso, dopo che ci hanno spaccato le oltretutto a un certo punto addirittura hanno minacciato prima ci hanno chiesto il DNA a tutti quelli che hanno partecipato quel giorno, poi visto il diniego di collaborazione di questo film del CSA, di questa puntata del CSA, visto questo, hanno addirittura minacciato del prelievo coatto. L'hanno già fatto ad alcuni, eh? Carcere si può fare, però chi non sta in carcere, voglio vedere uno che arriva dentro casa, che fa, mi pia so che è un mi ruba il pettine, esatto. vero, sì, se non mi ricordo chi? Male, a qualche compagna anarchica l'hanno fatto, hanno anche l'hanno presa, portata in commissariato. Ma molto probabilmente nei nuovi arresti succede questa. Sì, ah, vabbè, no, io dico il riferimento alle indagini su Via Fani, sì, sì, sì, e compagnia bella, insomma, che dimmi te che cazzarola vai cercando, non si è capito. Però questa cosa, perché dico che riguarda? Riguarda perché non è stupida, così come appare, anche se ce ne vuole, insomma. Cioè, non è stupida perché è una, appunto, è quella narrazione che fa dire poi ai ragazzini, ai ragazzi delle scuole superiori, no, le bombe, la bomba di Piazza Montano non essere Brigate Rosse, cioè, tanto per dirne una, insomma. Una perla, sì, veramente. Non è, non, quindi questa cosa di buttare questo periodo di storia importantissima in cui una cosa che può trarre come che non è vero che non si può fare, cioè in certe condizioni si può fare, infatti è stato fatto, perché più di quello, cioè, non era facile pensare, insomma, perché veramente è stato rivoluzionato ogni particolare di questa società, insomma, in cui niente è stato uguale dopo il passaggio di queste truppe inferocite. Quindi sotterrare questa memoria, che non è che stiamo parlando di chissà che, sotterrare questa, fare proprio cesura netta, cioè che non ci sia possibilità di aggancio, ecco, questo voglio dire. Cioè le lotte negli anni 70 sono anche in parte partite dall'aver tirato un filo da quella che si definiva la resistenza tradita, cioè, quindi sembrava che non fosse concluso quella partita là, insomma, e quindi si potesse ripartire da là, c'è tutto, c'è stata proprio la cesura netta, cioè non c'è più possibilità, c'è stata una cesura netta anche dal punto di vista diciamo così, proprio dell'organicità di questa società, questo è vero, insomma. Però dal punto di vista del pensiero c'è questa cosa qua, per cui c'è un monito sostanzialmente molto forte che riguarda l'oggi, credo sia chiaro, insomma, non ci provate, perché stavolta ci trovate pronti, perché la rivoluzione non si può fare. Perché chi ci prova è addirittura, appunto, non solo viene condannato dalle stesse masse, ma viene anche, ma è anche una persona, è anche una cosa che non indefinibile come fisionomia, eccetera, che a noi ci hanno detto che prende, cioè abbiamo avuto i servizi segreti di tutto l'arco possibile immaginabile, insomma, tutto per non accettare una verità molto semplice, insomma, no? che appunto negli anni 70 è successo anche questo, che qualcuno gli ha potuto venire in mente che il potere poteva essere sottratto a questa gente. E questo viene usato. Viene usato sia in maniera di messaggio, ma viene usato anche materialmente, cioè i quattro compagni della TAV gli hanno dato terrorismo. Cioè avevano mano messo un compressore, sì. Cioè, rendiamoci conto, cioè è una cosa che fa... E oggi il livello di repressione che viene messo in campo dalle lotte che ci stanno e dai movimenti che ci stanno non è paragonabile, veramente, non è paragonabile. Cioè, tutte la legislazione che c'è stata dopo, devastazione e saccheggio, il DASPO, che prima è partito con, no, per i tifosi e poi è stato applicato, cioè gli anni di galera come se fossero nocciolini, cioè per la manifestazione 3 anni e mezzo mi sembrano veramente la follia, le multe che stanno massacrando, perché insomma poi ti arrivano, cioè... Le sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative sono una roba veramente agghiacciante. Ecco. Poi estendono, non è più responsabilità personale, pesa su tutta la famiglia. Cioè, non è che ti mettono a te in carcere, no? Con la sanzione amministrativa tu impatti su tutto il tuo nucleo. Cioè, sì, un dispositivo ancora... una tagliola, è veramente una tagliola. Mi ricordo che alcuni compagni quest'anno, perché alcune misure, tipo blocco stradale, era prima una misura penale, è passata amministrativa, è amministrativa, dai 4.000 ai 10.000 euro. Cioè, non è che sì, voglio dire... No? È a discrezione della prefettura, neanche più degli organi inquirenti che conosciamo. È il prefetto che dice, per quella cosa che hai commesso non ti fai più X mesi, ma paghi, se non paghi poi c'è anche la galera. Però, quindi è un organo politico, non un organo giudiziario. Beh, il prefetto. Hanno usato i prefetti in tutte le maniere possibili, immagino. Però queste ed altre cose, anche altri tipi di mistificazioni sulle per esempio la concezione della corruzione, no? Li vediamo all'opera tutti i giorni, insomma, per cui c'è sempre un qualcosa che non torna nelle grandi operazioni di pulizia, diciamo così, che vengono elaborate da lor signori. Sicuramente l'interesse principale è questo, cioè quello di non far rialzare la testa, di tenerla, ed è appunto un discorso di sicuramente di repressione per chi ci prova, ma è soprattutto di costruzione di una narrazione, perché va di moda dirlo, e quindi di una narrazione di come funziona questo mondo, e che ci dovrebbe tenere a riparo, ma da guai maggiori, insomma. Un altro grande tema è quello della violenza, cioè di cui noi praticamente siamo costituiti, nel senso, siamo immersi in un sistema violento da tutti i punti di vista. Però la violenza politica è innominabile, al di là del fatto, insomma, che se ci sia qualcuno in grado di poterla impugnare, agire, perché quello è un altro paio di maniche, cioè condizioni soggettive, oggettive, insomma, a parte. Però proprio anche il tema proprio di discussione, cioè la violenza politica è un tabù. È delinquenziale. Cioè praticamente la molla per cui la storia si è fatta, che questo è, cioè la storia non si è mai fatta in maniera tranquilla, no? Ci sono sempre stati strappi di ogni genere. E l'abbiamo interiorizzata, io mi ricordo, praticamente l'80% delle persone che hanno under 40 si ricordano la professoressa di storia e filosofia al liceo, che ti diceva, voi non dovete fare l'occupazione perché noi abbiamo tirato le Molotov, poi vai a vedere, nel 99% dei casi ne era vero, e non è cambiato niente, no? Quindi voi, non stavamo neanche pensando a un atto di violenza politica, cioè per noi, capito, l'occupazione della scuola, però era tanto appunto, no, l'approcciarsi al tabù del fatto che poi magari che sai, gli operai, gli studenti parlano tra di loro, potrebbero maturare magari, capito, la scelta, certo, no? Cioè di intraprendere azioni anche, che ne so, violente, perché in alcuni casi è necessaria oggi violenza, soltanto appunto interveniva anche, capito, la gente, cioè come posso dire, il diffuso, no? Sì, cioè sì. Perché la professoressa, anzi pure anche di sensibilità sinistra, non l'ha lanciata la Molotov al 99%, però magari sì, ha partecipato alle parecchi l'hanno lanciata. E poi anche parecchi l'hanno lanciata, è vero. Se sono rimangiati pure la madre, devi ritrovare un posto. Cioè, se tu pensi che una delle più grosse operazioni che sono state fatte nei nostri confronti, nei confronti della lotta armata, è stata la dissociazione, non un caso voluta fortissimamente dall'allora PC, basata su uno scambio da quattro soldi, se vuoi, insomma cioè, sono tre righe quella legge, però incentrata su un fatto, cioè la rinuncia della violenza come metodo di lotta politica. Allora, il ripudio, no, poi c'era il ripudio della propria morale, esperienza. Però. Sì, un atto di contrizione, vabbè, quello che ti pare, però il punto focale era questo sostanzialmente, che se tu ci pensi, da parte di chi ha inteso, intende lottare contro lo Stato, il primo punto all'ordine del giorno, poi che se la eserciti o non la eserciti è un altro discorso, sì, perché dipende dalle condizioni esterne, non è che un giorno esci di casa e fai il matto, insomma. è esattamente quella di contestare il monopolio della violenza dello Stato, perché altrimenti non la fai, non la fai una lotta rivoluzionaria, fai non so che fai, fai la Caritas, fai sindacato, non so che cosa fai, però sicuramente se tu c'hai intenzione di fare quello, quello lo devi mettere assolutamente in perché te lo trovi davanti immediatamente, prima ancora che tu possa, no? Questo perché appunto è un mondo molto violento, ma è violento da ogni punto di vista. E quindi per avere quella soluzione, diciamo così, per chi c'è stato dentro quel patteggiamento, quella soluzione di un bello sconto di pena, bravi, veramente notevole, è passato a dire sì, io non. Quindi ti rendi conto quanto è importante questo principio. E lo chiesero anche a chi non aveva mai esercitato violenza, perché lo chiesero, cioè, come atto proprio politico. Lo chiesero a tutti distanza, quelli che no? avevano una condanna di lotta armata, anche di partecipazione, però a tutti quelli che volevano uscire da quella situazione, ma parliamo abbondantemente di ergastoli, che sono spariti su questa formulazione, insomma, non è stata un'operazioncina da poco, perché praticamente ha messo una pietra tombale su ogni possibilità di discuterla quella storia, di riattraversarla, anche di criticarla, cioè, perché lì o te pentivi e dissociavi, oppure non c'era possibilità di avere voce in capitolo, di libertà di parola, insomma, oggi ancora di più, perché ogni volta che apri bocca cioè, tutte le... Perché non è che si sono dissociati soltanto quelli di prima linea. Il problema è che si è più radicale. Capito? Cioè, voglio dire, almeno quelli, la giustificazione di averci ergastolo sulle sue spalle, no? Se proprio vogliamo parlare di giustificazione, ma si sono dissociati quelli che volevano appunto fare la rivoluzione, che l'hanno scampata dalle grinfie dello Stato e che oggi dicono, ah, per carità, appunto, non è servita a niente, anzi, non è servita. Che vuol dire non è servito a niente? Cioè, che non è che firmavi un contrattino, cioè, se riesce bene, se no mi pento. Cioè, sì, i compagni del Gramma oppure altri compagni non hanno mai fatto sottoscrivere una cosa così. Capito? Quindi, no, ma noi siamo democratici. Certo. Noi siamo democratici, ma soprattutto in questo paese c'è stato un partito. Eh già. Pesantemente, che è stato esercitato pesantemente la sua influenza, ed è stato il vero nemico, io credo, il vero nemico di chi... una cosa, perché forse sarebbe anche stato di cercare di ridefinire e di riconcettualizzare alcune questioni, per esempio quello che passa sotto violenza politica. Che cos'è esattamente? Violenza politica è un termine che è stato usato per come sostituzione, in opposizione al termine terrorismo, essenzialmente. Ma violenza politica che cos'è? Un picchetto? È un'occupazione? Allora parliamo di un'altra cosa, stiamo parlando di rottura della legalità. Allora, la rottura della legalità è il punto centrale. Se si ritorna e se si rileggono gli anni 70, che cosa c'è stato? C'è stata essenzialmente una rottura progressiva della legalità che ha portato poi a disputare quella che è il monopolio della violenza da parte dello Stato. Allora, se noi la mettiamo in questi termini, cambia, perché lì tu recuperi anche quello che è stato l'elemento centrale poi, no? Che era la lotta di classe, perché è stato un confronto durissimo di classe, è stato uno scontro. E l'uso di questi termini che si fa oggi, anche questo è un modo per mascherare una serie di questioni importanti sulle quali si dovrebbe ritornare, proprio nel momento in cui oggi poi si parla, cioè la legalità è il valore centrale, no? È quello a cui tutti tendono, il rispetto della legalità. No, allora l'azione parte esattamente dall'opposto. Però anche su questo piano ci sono delle mistificazioni grosse come una casa, c'è sempre appunto questo sottotesto, no? Che va letto. Cioè noi siamo sempre stati definiti dei criminali comuni, però ci hanno sempre trattato come pericolo numero uno, insomma, perché ci hanno messo nelle carceri speciali, ci hanno fatto i processi speciali, ci hanno specializzato in qualche maniera. Infatti l'unico processo che ci doveva dare un attestato di politicità era il processo per insurrezione, da cui siamo stati tutti assolti, questi stronzi, perché hanno deciso che l'insurrezione non c'è stata e quindi potevamo andare in pace, tanto ormai c'eravamo tutti condannati, quindi... E anche da questo punto sempre c'è questo tipo di per cui siccome come si dice, il codice, quello a cui loro tengono tanto, no? È sempre questa cosa di dirlo e poi negarlo, perché il codice praticamente parla di ognuno ha la responsabilità personale su quello che fa, tutti i reati invece, come si chiamano? Associativi. Addirittura anche se tu non c'eri non fa niente, però eri d'accordo e quindi è una continua negazione di quello che loro... C'è anche l'appoggio esterno? C'è tutto, c'è assolutamente tutto, non manca assolutamente niente, pur di... sostanzialmente devi buttare la chiave poi alla fine, insomma. Ma non solo buttare la chiave, quello ci sta nel gioco delle parti, ma di chiamarla in un'altra maniera, che poi diventa complicato arrivare al punto della situazione. Giustamente la presentazione di Silvia è importante, perché quello che viene messo in discussione è sostanzialmente l'idea stessa di conflitto, non ci deve essere niente. Cioè deve essere assolutamente tutto azzerato, perché c'è qualcuno che ci pensa e non sei sicuramente tu sei, devi essere una monade, stacca ognuno a casa sua, che non so se vi ricordate tutte le campagne contro le passioni, addirittura anche a livello individuale, no? Per cui ragazzi abbassate, cioè, divertitevi, sì, divertitevi, non state lì a pensare alle grosse, andate a fare caciara da qualche parte, buttate i sassi da, però non ragionate, insomma, addirittura persino quello dà fastidio, cioè il fatto che uno possa essere Ma io mi ricordo una frase che ha detto Prodi anni fa. E mo perché ci devi nominare Prodi? A proposito della Val di Susa, che ha detto che il problema non è un treno. Il problema della Val di Susa non è un treno. Infatti non è un treno. Il problema della Val di Susa è che qualcuno si vuole autodeterminare. Vedi, l'aveva capito, il mortadellone. Beh, non è un caso che la valle sia militarizzata da sola. Se fosse stato. Sì, perché appunto le parole oggi, come il recupero di certe parole, come autogoverno, come autoaiuto, sono altamente rivoluzionarie, secondo me. Quindi trovare una possibilità di applicare di queste cose. Che per esempio in confronto a certe situazioni, ma molte situazioni in cui ci troviamo immersi, in cui uno è solo come un cane e sta in mano completa al nemico, perché non sa trovare la forza da nessun punto di vista. Uno degli esempi più eclatanti sono gli operai di Taranto, che si stanno a difendere quel cavolo di posto di lavoro, che non è quella fabbrica, non è che produce acciaio, non è vero, quella fabbrica produce cancro. Come? Anche bene. Anche bene, anche molto allegramente. Il mio paese, no? Che la ministra della salute, sempre quella dei vaccini, che dice che non gli risulta, a lei non gli risulta, cioè lì si sa che veleni di ogni genere e qualità, il sacco che è quella lì, le mucche tutte con le zampe per aria, veleni di ogni genere, a lei non gli risulta, e quindi se non risulta al ministero tu sei, ecco, dentro situazioni in cui appunto se perdi il posto di lavoro, se ti ammali, se tu moglie della, che ne so, qualsiasi incombenza che possa venire fuori da una, da questa situazione così rarefatta di società individualizzata, atomizzata e compagnia bella, sei morto. Sei morto. Certo, non ti puoi riferire a CGL, immagino, perché ti dia il calcio finale. Quindi o si ricostruisce questa capacità di dal basso, di autoaiuto dal basso, oppure non ce la possiamo fare, per cui ci dobbiamo per forza consegnare mani e piedi e sperare che io me la cavo. Come tu dicevi rispetto ai tuoi compagni lì all'università, ma non è una grande strategia sperare che io me la cavo, perché a parte che devi contemporaneamente sperare che muoiano tutti quelli attorno a te. Perché altrimenti non funziona il giochetto, perché non ce n'è per tutti, no? E quindi diventa un cimitero di... Io però domanda stavo... velocissima, chi si ferma a cena? Chi si ferma a cena? Tutti? Mi sembra un'ottima domanda. Un'ottima domanda. Ce n'è per tutti? Tanto con le divisioni possiamo dividervi. Io volevo dire una cosa a proposito dell'attualità, cioè di quello che si può fare rispetto a tutto questo che è stato detto, che insomma è drammatico, non si sa da che parte prendere. Però da qualcosa possiamo cominciare. Allora, prima di tutto fare un discorso di verità, nel senso di dire effettivamente dove siamo messi. Per esempio, io sono convinta che questa non è, sì, è la fine di un ciclo, ma è l'inizio di un ciclo nuovo e particolarmente importante per la borghesia, cioè la borghesia si è rilanciata. Mentre noi ragioniamo e camminiamo e portiamo avanti le lotte come se fossimo ancora nel periodo precedente. Cioè noi abbiamo un'impostazione, chiamiamola ottocentesca, di rapporto con il sociale e con la situazione. Mentre la borghesia ha fatto un salto di qualità notevolissimo. Praticamente lei ha fatto lotta di classe all'interno della classe, lei ha buttato a mare la piccola e media borghesia, si è costituita una borghesia transnazionale, il che si pone come nuova aristocrazia, sta buttando a mare gli stati-nazione, perché devono diventare protettorati, asserviti, e chi governa questi stati è un'emanazione della borghesia transnazionale. L'essere umano ha perduto in questo contesto qualsiasi tipo di valore, cioè la vita umana non vale più, e la borghesia ha la pretesa di porsi come pensiero unico e riferimento unico. Se noi non partiamo da qua, non capiamo la fine del lavoro, no? Cioè ci mettiamo a inseguire il lavoro, ci continuiamo a chiedere perché il lavoro non c'è, il lavoro ci deve essere, devono ricostituire il lavoro. No, perché noi in questo modo ragioniamo ancora con un metro che appartiene al secolo scorso e impostiamo le lotte con un metro che appartiene al secolo scorso. Tipo, dico una sciocchezza, gli scioperi. Lo sciopero generale, lo sciopero per avere, mantenere il posto di lavoro, cioè, sono tutti lo sciopero delle donne, vabbè, quello entriamo in un campo ancora più minato perché è interclassista, quindi addirittura, vabbè. No, qualcuno non lo spiega perché non ho mica capito. Vabbè, altrimenti entriamo. No, per dire, usiamo sempre lo stesso strumento. Anche esatto. No? Allora, anzi, viene scoperto uno strumento quando non serve più, cioè non ha più senso di essere, no? E quindi, vabbè. Però tutto questo armamentario fa parte di un tipo di approccio alla lotta che non serve. Adesso il referente è una situazione di precari, disoccupati, emarginati, anche chi lavora è in una situazione di lavoro, non lavoro, lavoro parziale, oggi lavoro, domani non lavoro. Quindi il referente sociale è completamente cambiato. La piccola e media borghesia sono proletarizzate, nel senso che ancora magari pensano di essere chissà che cosa, ma non è vero, fanno tutti la fame, assolutamente, i liberi professionisti, quelli che una volta noi chiamavamo bottegai. Quindi noi dovremmo, rispetto a una situazione di questo tipo, trovare il filo comune che lega tutti questi strati sociali colpiti dalla crisi, perché altrimenti ci muoviamo ancora per categorie, ci muoviamo ancora per lotte sindacali, ci muoviamo ancora per ambiti lavorativi, ci muoviamo ancora per rotticelli. Questo non serve assolutamente a niente, tant'è vero che tutto questo tipo di lotte girano in tondo, si mordono la coda, non arrivano da nessuna parte e fanno sprecare un sacco di energia. E quindi, per esempio, questo è un discorso su cui noi dovremmo ragionare tantissimo. E io parto sempre dal fatto che noi stiamo qua dentro e tutti i discorsi che sono stati fatti qui sono giustissimi, ma noi stiamo qua e se c'è una maniera per legare le nostre lotte a quelli di quelli che vengono qui e che si trovano sbattuti o a morire nel Mediterraneo o su qualche spiaggia a scappare da qualcuno, è qui che noi dobbiamo lottare per noi e quindi di riflesso anche per loro, cioè facendo chiarezza sulle guerre umanitarie, battendoci contro la militarizzazione dei nostri territori, contro le nostre basi militari qua. Questo tipo di lotta è un aiuto a loro. Non significa che noi siamo presuntuosi, significa che noi lottiamo qua dentro, dove diavolo stiamo messi? Io dico nel ventre della bestia, ma comunque stiamo. E una delle cose micidiali che dobbiamo recuperare è il discorso della legalità che diceva Silvia. Cioè, ci sono, per poter attaccare il capitale qua, dei punti chiave che noi dobbiamo affrontare qualsiasi lotta facciamo. Cioè, facciamo Taranto, facciamo le donne, facciamo l'immondizia, facciamo non lo so che cosa. Noi dobbiamo trasformarle immediatamente in lotta politica, per cui noi dobbiamo affrontare il tema della legalità, della gerarchia, del merito. Questi sono i nodi attraverso cui il neoliberismo si è costituito e questi sono i nodi che noi dobbiamo smontare. Se noi facciamo una lotta come se noi come femministe, come donne, vogliamo essere utili in qualche modo alla liberazione di tutti, noi dovremmo, in qualsiasi posto siamo, in qualsiasi lotta portiamo avanti, smontare per esempio la gerarchia, il percorso gerarchico, il percorso autoritario, in qualsiasi posto. Detto proprio ancora più terra, terra, terra, facciamo la lotta sul lavoro, non la dobbiamo fare per 20 euro in più, per 20 euro in meno per contratto, per far saltare i tornelli, perché quello è il controllo, quello è il sistema, cioè il nodo attraverso. Non è vero, non si fa questo. È in contraddizione perché le lotte adesso continuano a essere portate avanti come se noi fossimo in un sistema keynesiano. Non ci stiamo più, inutile, come diceva in un famoso film, è finita. La messa è finita. Non dicevo quello, dicevo l'altro, ma è finita. Quindi noi dobbiamo pensare di rimpostare le lotte e cercando di scardinare qua dove stiamo noi e facendo un'operazione di verità, cioè il fatto per esempio di individuare il nemico ha un nome e un cognome, è la socialdemocrazia riformista, è lei che ha naturalizzato il neoliberismo qua ed è lei che noi dobbiamo smontare come una radiolina, o cercare di smontare come una radiolina, perché la destra tradizionale porta avanti interessi che sono già sconfitti e viene usata dalla socialdemocrazia. La socialdemocrazia la sta usando perché lei si pone come quella democratica, come quella al di sopra delle parti, come il referente accettabile, giusto, eccetera, eccetera, senza estremismi, quello che porta avanti il politicamente corretto, che è un'altra cosa che noi dobbiamo smontare come una radiolina. Il politicamente corretto è una cosa che, e qui dico una cosa che aprirebbe scenari da paura, però non voglio, perché sarà oggetto di un altro incontro. Il femminismo non può portare avanti il politicamente corretto, perché il politicamente corretto è una nuova scala di valori ed è contro noi stesse. Noi come femministe dobbiamo rifuggire dall'impostare una nuova scala di valori e dal pretendere che queste siano, che questa sia osservata, per carità. Come dice la socialdemocrazia, poi giovedì scorso Paolo abbiamo presentato Scarceranda, c'è stata la proiezione del film su Rosa Luxemburg. In quel film si è visto come la socialdemocrazia ha fatto fuori in Germania persone che potevano metterla. Quello che è il film, quello della von Trotta. Anche se potevano destabilizzare l'Europa di quegli anni. Era un'Europa che andava verso un primo conflitto mondiale. Sì, è tutto giusto, anche se io la von Trotta non la manderei da nessuna parte se non a quel paese, perché è una, no, cioè si è permessa di fare, di dire delle cose nel film, quello su Eslin, su Gudrun Eslin, quello su adesso, in sì, cioè è come la socialdemocrazia vede i rivoluzionari. E io, per favore, i rivoluzionari, che la socialdemocrazia parli di se stessa. Che sì, sì, sì. Forse anche una cooperazione, cioè, mentre parzialmente rivaluta la Luxemburg in maniera di figura distorta, gli permesse poi di attaccare la Meinhof e la Rastro, perché quelli sono cazzini e terroristi. Invece quell'altro è molto, cioè, la solita operazione. Cioè, sono un'operazione di quel tipo. Germania in autunno, che è proprio leggendo su internet, è proprio non ho visto la storia della... No, se, no, perché io rispetto alla cinematografia italiana sugli anni 70 ne vorrei 20.000 di von Trotta. Cioè, il livello è stato proprio incredibile, veramente incredibile. Però quello là non l'ho visto. Parliamo, cioè, in Italia parliamo di veline, dei servizi segreti. Ho capito, però sono tutti così. Ho capito. Così, cioè, non hanno assolutamente nessun tipo di dignità. Va bene. Va bene. Allora, grazie Barbara, grazie al Nido, grazie a tutte voi. E andiamo a cena. Grazie.